Quante guerre del mondo hai messo mano e anche altro, hai ucciso l'agnello ed il figlio, umiliato il tuo stesso fratello, vai fiero sempre a conquistare tutto quello che non ti appartiene, pronto a difendere il tuo credo, anche a costo di uccidere senza freno. Io ti perdono, uomo, perdono la tua incapacità di amare, la tua misera idea della vita, la tua misera idea dell'amore. Io ti perdono, uomo, perdono la tua infelice memoria, che ripete sempre la solita storia, ma chissà un giorno forse vedrai la strada della gloria. Ti crei i tuoi propri confini e ti credi di essere libero, la giustizia è per te solo un alibi, una trappola per deboli ed umili. Vorresti liberare il mondo a forza di bombe e tritolo, ma così facendo dimostri solo quanto sia misero il tuo tesoro. Io ti perdono, uomo, perdono la tua incapacità di amare, la tua misera idea della vita, la tua misera idea dell'amore. Io ti perdono, uomo, perdono la tua infelice memoria, che ripete sempre la solita storia, ma chissà un giorno forse vedrai la strada della gloria. Non vedi che è l'ora di lasciare questa vecchia dimora, pitturata con il sangue dei morti, di tanti secoli morti e sepolti. Nasceranno nuovi fiumi splendenti per tutti gli uomini tutti. Ogni terra avrà la sua parte di cielo, ogni cielo il suo splendido uomo. Io ti perdono, uomo, perdono la tua incapacità di amare, la tua misera idea della vita, la tua misera idea dell'amore. Io ti perdono, uomo, perdono la tua infelice memoria, che ripete sempre la solita storia, ma chissà un giorno forse vedrai la strada della gloria. Io ti perdono, uomo, perdono la tua incapacità di amare, la tua misera idea della vita, la tua misera idea dell'amore. Io ti perdono, uomo, perdono la tua infelice memoria, che ripete sempre la solita storia, ma chissà un giorno forse vedrai la strada della gloria.